get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte. Quella che sta per iniziare è la nostra 272esima puntata della trasmissione È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto. Allora, dunque, io sono Manuela ed oggi con me in studio c'è Caterina. Buonasera. Buonasera. E udite udite, questa sera non sono la tecnica. Perché mi sento emozionata a stare al di qua del tavolo. Wow, riesco a fare emozionale Manuela, il che è tutto. Per questa puntata abbiamo pensato di parlarvi di un appuntamento che da qualche anno accompagna tutte le amanti del cinema. Stiamo parlando di Some Prefer Cake, il festival internazionale di cinema lesbico che si è concluso domenica 23 settembre al nuovo cinema Nosadella di Bologna. Ci rendiamo conto che è passato un po' di tempo dalla fine di questa sesta edizione, ma comunque sia ci faceva piacere parlarne con una delle organizzatrici, nonché Luchi Massa, con la quale ci sentiremo telefonicamente tra un pochino. Tra i suoi impegni ed i nostri è stato un po' complicato organizzarci, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Bene, ora ascoltiamo un brano musicale e poi ci addentreremo all'interno dei segreti, si fa per dire, del festival, e direi che il brano lo facciamo scegliere a Kate. Sì, tu sei molto ottimista. Ecco. Credo che il mio microfono non si senta, non vorrei... No, parla! Non si sente il mio microfono? Si sente? Ottimo. Io okay. In cuffia ti sento. Io nella mia cuffia no, invece, quindi non so bene che succede. Vabbè, se non si dovesse sentire... Dunque, telefonateci. Cioè, voi speravate che oggi non ci sarebbero stati problemi perché non c'era Manuela al mixer, invece no, perché noi abbiamo una costanza nelle nostre trasmissioni, che è quella di combinare casini. Comunque, mettiamo una canzone un po' datata ma molto carina, e la cantano Mariella Nava e Tosca e si intitola La differenza. Ora, se riesco a farlo partire, l'ascoltate pure. Oh. Tuona con il sole, sopra un'amicizia amore, la dolcezza che rimuove, piano le carezze piove. Piove lacrime e veleno, dimmi amore dove andremo, e lei giura seno a seno, sotto un cielo agli altri osceno. Occhi dietro a una finestra, ma che storia disonesta, come un'ombra sulla vita, la terra trema inorridita, ma è una storia come tante, un corpo uguale a un altro amante, amarsi dentro ad un riflesso, toccarsi nello stesso senso. L'anima non li ha più uguali, come le mani che le prenderai. Tuona, tuona un tempo cupo, ferma i lati di un dirupo, freddo rosso sul suo viso, hai paura all'improvviso. Hai paura tutti i giorni, delle infamie nei dintorni, e le giuri ventre a ventre, amore non mi importa niente. Al di là di una ringhiera, quella strada che non c'era, è un terreno più sconnesso. Questa dei normali, ma questa sera tu non le vorrai. Maledetta l'apparenza, dov'è la differenza? Sta forse nei particolari, ma l'anima non li ha che uguali. Come le mani che le scalderai. Beh, approfitto della coda di questa canzone, ripeto, un po' datata, ma comunque molto, molto gradevole da ascoltare. Bellissimo. Allora, salve a tutte, io sono Caterina e dunque dobbiamo parlare di Son Prefer Cake. Come tutti gli anni il festival si è concluso con la proclamazione dei film vincitori e come tutti gli anni ci sono state due sessioni, il premio della giuria ed il premio del pubblico. Prima di leggervi le sinossi dei film, vi diamo qualche informazione di massima, un po' così su proprio tutta la rassegna. Il festival ha presentato 29 film che hanno permesso di avere una carrellata della produzione cinematografica lesbica internazionale. Infatti i film sono arrivati dal Belgio, dal Canada, dalla Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Iran, Israele, Italia, Libano, Stati Uniti, Sudafrica, Spagna, Svezia e Svizzera. Considerevole è stato anche l'apporto delle ospiti. Quest'anno sono intervenute al festival l'artista e regista Zanele Mouly, scusate la nostra pronuncia perché sia io che Manuela non è che siamo proprio poliglotte, diciamolo, la cui mostra, curata da Luki Massa e Marta Bencic, è rimasta esposta fino al 20 ottobre, quindi fino a qualche giorno fa. Poi è intervenuta la regista statunitense Deborah Kashnoff, a cui il festival ha dedicato una sezione monografica. Poi la regista Adele Tulli e la fumettista Pat Carra, questa sono abbastanza conosciuta. Le registe Shikra Capone, Cristina Comperini, Jacqueline Julien e Flora Cariven, credo, mi chiedo venia. In più spesso presso la sede del nuovo cinema Nosodella sono state esposte le opere fotografiche di Vertebra VJ. E per concludere, aspetto non meno importante è la partecipazione. Quest'anno Son Prefer Cake ha raddoppiato il proprio pubblico registrando 4.000 presenze nelle 4 giornate di programmazione. E adesso, come dire, andiamo al sodo, andiamo a vedere i risultati della giuria leggendo i film vincitori della 6ª edizione di Son Prefer Cake. Allora, i premi della giuria. La giuria della sezione narrativi, dove c'erano dei nomi illustri, infatti c'era Silvia Novelli, che è una programmatrice del Torino GLBT Festival, Silvia Minelli, che è la direttrice organizzativa del Florence Queer Festival, Titti De Simone, presidenza del Sicilia Queer Festival, e Margherita Palazzo, giornalista del web magazine Sentieri Selvaggi. Diciamo, questa bellissima giuria ha attribuito il premio come miglior cortometraggio a Ifrim Stickets di Adia Imri Or, che è del 2011 ed è un di Israele, e la seguente motivazione, che è scritta in italiano, quindi sarà decisamente molto più facile spiegare, è stato attribuito appunto questo miglior cortometraggio con questa motivazione: per la capacità di toccare in pochi minuti più livelli di lettura e di esperienza, offrendo una visione non stereotipata della maternità e della maternità lesbica, una rara riflessione sull'esperienza genitoriale come scelta di diritto e non come obbligo connesso al ruolo femminile, con un finale non scontato che lascia aperto lo spazio alla discussione. Poi c'è stata anche una mansione speciale per The Lel Ward di Circa Capone, però di questo cortometraggio ci parlerà più avanti Manuela, perché ha avuto anche un altro premio, per cui un altro riconoscimento, e quindi il dettaglio lo dirà più avanti Manuela. Invece, come miglior lungometraggio, il premio è andato a Moschita I Mari, opera prima di Aurora Guerrero, che è degli Stati Uniti, e la motivazione è la seguente: con la forza con cui racconta una comunità, quella latina, protagonista di questo esordio alla regia, oltre che parte attiva nella sua realizzazione. Per il realismo di uno sguardo capace di catturare tutte le sfumature dei moti adolescenziali tramite il non detto e i piccoli gesti, grazie anche alla potenza delle interpretazioni delle due giovani protagoniste. Poi c'è stata anche una menzione speciale a Joy più belle di Veronica Kadar, è sempre un film israeliano del 2011, e con la seguente motivazione: per l'originalità surreale e la scelta di giocare con il genere della commedia grottesca, proponendo, come raramente accade, due protagoniste tanto folli quanto lucide nello scegliere una vita autenticamente fuori dalle regole, con un happy end esplosivo in cui al posto delle stelle cadenti continuano a piovere bombe. Ecco, mi sono ancora qui. Dunque, la giuria delle sezioni documentari, anche questa di tutto rispetto, perché era composta da Giovanna Grignaffini, docente del DAMS di Bologna, Federica Fabiani, ideatrice di Let's Trailer, e tutte le amanti del cinema sanno perfettamente di che cosa stiamo parlando. Maria Pia Brancadori, presidente della Circola Alice Gui di Cagliari, ha conferito il premio come miglior documentario a Difficult Love di Zanele Moli e Peter Goldsmith, un film sudafricano del 2010, e questa è la motivazione: per la straordinaria sensibilità figurativa e linguistica attraverso cui il film costituisce un autoritratto potente e commovente di un artista e di una militante totale. Un artista che non ha paura di mostrare le lacrime di fronte al dolore del mondo. Un artista, soprattutto, che ha saputo trasformare le difficoltà dell'amore lesbico in poesia e bellezza. E poi una menzione speciale a Audre Lorde, The Berlin Years 1984-1992 di Dagmar Schulz, della Germania del 2012, per questa motivazione. Il sapiente lavoro su documenti e materiali d'archivio di cui è intessuto il film, e per la sua straordinaria capacità di ricostruzione e ristrutturazione di un ambiente, di una cultura e di una vita nera, lesbica, orgogliosa, combattente e felice. E poi la bellezza di Some Prefer Cake è che, oltre a, diciamo, le esperte, tra virgolette, le donne famose che hanno voce in capitolo, anche il pubblico ha una sua voce in capitolo. Infatti c'è stato il premio del pubblico, e per quanto riguarda questo premio, la votazione più alta per la categoria dei lungometraggi narrativi è stata ottenuta Cloudburst di Tom Fitzgerald, Canada 2011, perché è una commedia ironica e divertente che racconta la storia di Stella e Dottie, 150 anni in due e 31 anni di convivenza, in viaggio verso il matrimonio per proteggere il loro diritto di concludere insieme la propria vita. E invece il voto del pubblico per il miglior documentario è andato a convergere con quello della giuria, assegnando il premio a Difficult to Love. Infine, il riconoscimento del pubblico, sempre del pubblico, come miglior cortometraggio è andato a The Mermaids di Petra Clever, credo. Comunque abbiate fede, perché se volete andare sul sito del Some Prefer Cake trovate nel dettaglio tutte le indicazioni che vi sto dando qui. È un sito fatto molto bene, molto facile da consultare, ci sono un'infinità di indicazioni, e sicuramente se lo leggete voi lo capirete anche meglio di quanto possiamo fare io e Manuela nel esporvelo attraverso i microfoni. Comunque, quest'ultimo film, questo cortometraggio tedesco, parla di Nikki, che è una studentessa di matematica quasi invisibile alle prese con il football americano. Io ho parlato tanto, direi di mettere un altro brano musicale, così si riprendono anche. Ecco. Così poi ci addentriamo, certo. Arrivo io con le trame, esatto, le cose, che sono così molto più accattivanti, decisamente, tutte queste cose tecniche così e lette male che ho fatto io. No, ha letto benissimo. Iniziamo ad associare tutti questi premi a... alla trama. Esatto, quindi. Esatto. E visto che stiamo parlando di un festival di cinema lesbico, io ho pensato di mettere una bellissima canzone, anche questa un po' datata, io sono un po' retro, come sapete, sarà l'età, anche io, di Melissa Etheridge, che si rivolge alla sua mamma e le dice: mamma, I am strange. Oh, interessante. Change. eccoci qui. Addentriamoci un pochino di più nelle trame per sapere di cosa parlano tutti questi lunghi, corti e documentari di cui ci ha molto coraggiosamente informato Caterina. Partiamo dal primo, che Caterina ha letto in un altro modo, però vabbè. È il primo, che è un cortometraggio, Ifarim Stickets di Adia Imri Orr, del 2011. Vabbè, tanto presso non poco, ci interessa. Via, diciamo, presso Ifarim poco. O Ifarim è abbastanza semplice. Dunque, narrativo, già premiato al Tribeca Film Festival 2012 con lo Student Visionary Award. Stickers sono i punti. Sono i punti. I punti, quelli di sutura. I punti di sutura. Ah, proprio i punti. Sì. Okay. Ah, notare il mio inglese o americano. Punti di sutura. Esito di un parto difficile. Amit e la sua compagna Noah hanno appena avuto un bambino. Noah si sta riprendendo con fiducia e ottimismo, concentrata sul suo desiderio di un bambino. La sua compagna Amit vive l'ospedale con disagio, la sofferenza fisica della persona che ama, l'atmosfera circense che circonda mamme e nascituri. Pensate, i clown che vendono i pannolini, detto questo. Escludendo a priori la possibilità che per alcune di esse, per scelta, non c'è un padre. Un corto prezioso che in pochi minuti tocca più livelli, offrendo una visione non stereotipata della maternità, una messa in discussione dei suoi prestabiliti e una rara e coraggiosa riflessione sull'esperienza genitoriale come scelta di diritto e non come obbligo connesso al ruolo femminile. Ma l'aspetto più interessante è il modo in cui questo film tradisce con sottigliezza le attese e i pregiudizi nascosti anche nello spettatore più smaliziato. Il personale medico in realtà non vive come un errore la presenza di Amit e tocca a lei sentirsi inadeguata nella sua guerra. Forse può deporre le armi, il disagio che avverte forse è personale. Non ha niente a che fare con la coppia, ma con una maternità che non è affatto l'obiettivo principe e immediatamente sospettato, come commento di uno zuccheroso happy end, va il compito di fare il contrappunto a un vibrante colpo di scena, che ovviamente non vi diremmo già mai. Certo. Non ci sperate. Passiamo ora ad un altro cortometraggio, sempre premio della giuria, The L Word, cozze e lesbiche veraci. Scusate, ma mi viene da ridere. Ah, questo è carinissimo. Regia di Cristina Capone, Italia 2012. È il narrativo che ha ottenuto la menzione speciale e questa è la motivazione. Per l'ironia con cui si prende gioco della rappresentazione patinata dell'empowerment lesbico e l'autoironia con cui una comunità si racconta, facendo dell'umorismo un elemento di forza e di visibilità. È stato proiettato in prima mondiale e questa è la sinossi. Carlina, pescivendola di Livorno, è di fronte all'occasione più importante della sua vita. La produttrice di The L Word è a Livorno per un casting alla ricerca di nuovi talenti per la prossima stagione. Oh mio Dio, oh mia Dea. E passiamo ora ad un lungometraggio, Mosquita I Mary, regia di Aurora Guerrero, Stati Uniti 2011, narrativo. Tenero romanzo di formazione, Mosquita I Mary racconta la prima cotta di due ragazze di origine messicana a Los Angeles. Wow. Storia dell'adolescenza, l'età in cui può avvenire l'inaspettata metamorfosi dell'amicizia in amore. Scusate, qui una parentesi. A chi di noi non è capitato? ma va là, dai, diciamolo. Vabbè, chiusa parentesi. Il ruolo fondamentale della famiglia nelle vite di entrambe influisce sulle responsabilità e le scelte che le due ragazze si trovano a dover affrontare nonostante la loro giovane età. L'importanza del contesto è una scelta voluta dalla filmmaker Aurora Guerriero. Qui alla sua opera prima, che sottolinea l'importanza di aprire le porte a registe barra i latinoamericane barra i, soprattutto alle donne e ai giovani, per aiutare a costruire una rappresentazione della comunità dall'interno. Questa è un'altra cosa interessante, certo, direi comunque. Sì, sì. Da sottolineare la bravura delle due protagoniste, Fenessa Pineda e Venezia Troncoso. Ragazze, se ho sbagliato, veramente non l'ho fatto apposta, cioè, apprezzate la buona volontà. Ah no, questo però può essere un incentivo alle donne italiane a fare dei film, così almeno hanno un cognome. Ecco, così decente. Il prossimo anno, esatto, tutto in italiano, non, cioè, non saremo costrette a fare queste figure, esatto, barbine, che se ci sentisse Lucilla, Rosina ci sparerebbe con fucile a pallettoni. E passiamo ad un altro lungometraggio, sempre vincitrice, Joe è più bel, regia di Veronica Kedar, Israele, 2011, narrativo. Road movie e dark comedy divertente, surreale e dissacrante, Joe è più bel racconta la fuga rocambolesca di due ragazze fuori dalle righe. Joe appena tornata da un viaggio a Bangkok con un carico di droga, e Belle fresca di manicomio dopo l'omicidio accidentale dell'ex ragazzo di Joe. Giustamente, cioè, qua un'altra micro parentesi, perché se un uomo ammazza una donna manco va in galera, perché figurarsi, cioè, è normale. Se una donna poco pure per errore, ma anche no, uccide il compagno, il fidanzato, al manicomio. E lei è pazza sicuramente se fa una cosa del genere, no? È pazza, quindi deve essere rinchiusa, giusto? Io aspetto sempre comunque una nuova Rambo, che ne so, una Rambo al femminile fa una strage a quella che gli fanno. Vai, leggi. Comunque, vabbè, quindi è tornata dal manicomio per l'omicidio accidentale dell'ex ragazzo, dice. L'ossessivo e angosciante sottofondo della radio che conta i razzi che cadono su Sderot danno la dimensione della presenza della guerra e delle sue conseguenze. Mai didascalico, il film, con le sue scelte poetiche e surrealiste, divertenti ed estreme, tocca l'assurdità della guerra e il coraggio a vivere nonostante tutto, con la forza della giovinezza, la capacità di adattarsi in una situazione assurda. Produzione indipendente, Joe più belle è il primo lungometraggio della giovane regista Veronica Kedar, che interpreta anche il ruolo di Joel. Sia che grazie Kate, sia Kedar che Sivan Levy Belle sono eccezionali nei ruoli delle protagoniste, e la loro chimica dolce e amara ti spezza il cuore. Sì, io stavo guardando l'orologio che proprio inesorabilmente 4 prosegue. Minuti, quindi allora vado. Dobbiamo telefonare, la sorpresa è che dobbiamo telefonare a Luchi, quindi magari leggi stringendo, vedi tu se riesci. Sì, Difficult Love, regia di Zanel Muholi, Peter Gornish, Sudafrica 2010, documentario, le sfide quotidiane delle lesbiche nere in Sudafrica. Tu Cate inizia sempre a preparare là. Sì, io no, volevo... Vabbè. Quando hai finito metto una canzone e poi nel frattempo telefoniamo. Raccontate attraverso l'obiettivo di Zanel Muholi, fotografa di fama internazionale e attivista visuale, come lei stessa si definisce. E no, questa non la possiamo non dire, Audre Lorde, il documentario, Lucilla ci ammazza. Se c'ha ragione, The Berlin Years 1984-92, quello detto prima, Germania 2012, documentario, ecco, Audre Lorde documenta l'influenza di Audre Lorde sulla scena politica e culturale tedesca nel corso di un decennio di profondo cambiamento sociale. Vediamo il dialogo con le donne afro-tedesche e l'incoraggiamento a rendersi visibili all'interno di una cultura che fino ad allora le aveva tenute isolate e silenziose, e la sfida delle donne bianche perché riconoscessero l'importanza del proprio privilegio e imparassero a trattare con la differenza in modo costruttivo. Materiale d'archivio inedito, interviste attuali ci restituiscono preziosi frammenti dell'Audre Lorde privata. Nel 20° anniversario della sua morte, presentato in panorama alla Berlinale 2012. Direi di chiamare... Sì, io adesso metto una canzone delle Sapphire che si intitola Because of You e poi nel frattempo noi telefoniamo a Luchi che ci scuserà per il tremendo ritardo. What should I do, do, do, do, do, do, do about you, you, you, you, you, you, you? Because of you, you, you, I still stutter my words. Because of you, you, you, oh, my tummy hurts. Because of you, you, you, my eyes are red. Because of you, you, you, I just stay in bed. What can I do, do, do, do, do, do, do about you? Eccoci qua, dunque abbiamo in collegamento una delle organizzatrici, Luchi Massa, che mentre Kate insomma finisce di sistemare gli ultimi ponti. Cioè, noi abbiamo una parola grossa, abbiamo in collegamento, speriamo che ci sia Luchi, ma sì, ci dai, sei Luchi? Ci sono. Eccola! Vai. Benvenuta fra noi! Ciao! Ciao, allora Luchi, come avrai potuto intuire dal ritardo notevolissimo con il quale ti stiamo chiamando, abbiamo avuto tantissime cose da dire. Comunque ripetiamo che tutte le informazioni che sono state fin qui date praticamente le abbiamo trovate sul sito che gentilmente è stato curato dalle organizzatrici ed è molto esauriente. Sì, di questo ti ringraziamo. Grazie. Se lo vuoi ricordare, magari così chi non ha capito bene i nomi che io e Manuela da Provette, come si dice, donne che parlano tutte le lingue del mondo, non hanno capito assolutamente di chi stavamo parlando. Però le trame le hanno capite, le trame le hanno sicuro, e noi le abbiamo incuriosite. Allora, Luchi, è sempre un piacere sentirti, e quindi noi abbiamo parlato tantissimo di Son Prefer Cake, però noi siamo convinte che ci sta sempre tanto altro da dire quando si verificano occasioni come questa, e quindi ci preme magari sapere proprio le tue impressioni sull'evento che si è appena concluso, soprattutto se ti sei ripresa dalla fatica che immagino sia stata stressante. Sì. Se sei soddisfatta, insomma dici qualcosa tu sulle tue impressioni personali. Sì, intanto grazie per avermi chiamata, anche perché oggi è stata una giornata abbastanza dura. Quindi sentire un po' di voci e parlare un po' di cinema lesbico fa, come dire, fa sempre bene. Fa piacere, certo. Allora, no, le impressioni sono veramente, come dire, ottime, nel senso che quest'anno abbiamo raddoppiato la presenza del pubblico, abbiamo avuto circa 4.000 presenze. Caspita. Quindi questo per noi è veramente importante, dato che il nostro, come dire, uno dei nostri obiettivi è contaminare la cultura altra, no? con la cultura lesbica. Certo. Per noi, come dire, questa invasione allegra e pacifica di lesbiche da tutta Italia e anche dall'estero a Bologna è un risultato, è stato un evento. Certo. Senti, ma come ha reagito la città di Bologna, anzi perché è la sesta edizione, come reagisce ogni volta, come l'avete preparata a questo evento grandioso? Ma la città di Bologna, come tu sai, storicamente è ospitale, no? Sì. Anche perché per anni e anni di associazionismo lesbico e GLBT in particolare, no? Di movimento. Certo. Diciamo che noi abbiamo durante tutto l'anno una serie di iniziative con vari partner, sia associazioni politiche, quindi impegnate politicamente in città, sia meno politiche, sia anche proprio commerciali, che ci appoggiano sia a livello, come dire, di simpatia, sia a livello di ospitalità. Mm-hmm. Per cui l'arrivo al festival, delle 4-5 giornate del festival, alla fine poi sono, come dire, il culmine di tutto di un percorso, percorso che si è, certo, fatto durante tutto, certo, l'anno. Certo, certo. Quindi è un evento ormai aspettato, questo sì. Ah, dici che non l'aspettano? Non lo aspettano soltanto le lesbiche per venire lì, cioè anche la città lo sa che prima o poi succede. Sì, no, la città lo sa, anche perché, come dire, noi le tempestiamo praticamente. Fate di tutto per farglielo sapere, fino a insomma. Settembre con manifesti, per cui e varie iniziative, ma alla fine dire oddio, finalmente c'è il festival di cinema lesbico, così hanno finito. Esatto. E non ci stressano più, no, più o meno. No, è una buona accoglienza. Poi naturalmente il festival è frequentato al 90% da lesbiche, certo, da donne, insomma, perché poi è quello che ci si aspetta. Poi, tra l'altro, quest'anno sono stata veramente molto contenta perché ho visto lesbiche e donne che non vedevo ma da anni. Ah, meno male. E questo è sempre molto importante, perché poi alla fine, come sappiamo, questi eventi sono sempre meno, no? Certo. Ci sono state le 5 giornate lesbiche, sono state importantissime. Poi insomma, queste iniziative solo per noi sono sempre rare. Certo. Per cui già. Poi sono arrivate donne dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Campania, e sono state lì per tutto il festival, quindi vuol dire che l'avevano proprio programmato. Certo. Ascolta, Luchi, io però ho bisogno di farti un'altra domanda, perché secondo noi Son Prefer Cake non è soltanto cinema, no? È proprio una questione di cultura lesbica, sì, che passa. E quindi, esatto, all'interno del festival ci sono state delle altre iniziative, una delle quali credo che sia stata tolta il 20 di ottobre, no? Ce ne vuoi parlare? Sì, San Prefer Cake appunto è cinema come focus centrale da tutto il mondo, ma naturalmente anche le altre arti. E quest'anno abbiamo avuto il piacere di ospitare Zanele Muoli, che è una fotografa attivista lesbica sudafricana, e insieme a lei abbiamo portato qui una parte, insomma, delle sue opere, e abbiamo fatto questa esposizione proprio nel centro di Bologna, in via Sant'Isaia, in questo posto bellissimo che è il Quadriportico. Fra l'altro è un ex ospedale psichiatrico, quindi anche a livello, diciamo, proprio di rapporto storico, no? Che cosa è voluto dire la psichiatria rispetto alle lesbiche, alle donne, certo, e quindi riappropriarsi di questo spazio. E poi con lei abbiamo fatto questo incontro bellissimo il sabato del festival. Lei si occupa di tantissime cose, ma soprattutto si occupa anche del discorso triste e drammatico che è quello dello stupro correttivo, questo atto terribile, maschilista, patriarcale, nel quale praticandolo pensano di poter, come dire, correggere il lesbismo, no? Certo. Esatto, ovviamente pratica inutile perché, come dire, sappiamo bene che forza hanno le lesbiche quando vogliono. Infatti è stata bellissima questa mostra, soprattutto perché erano ritratte tutta una serie di lesbiche visibili sudafricane. Uh-huh. Lei fotografa le lesbiche nere, ovviamente. Uh-huh. E c'era questo sguardo forte, fiero, orgoglioso di quello che si è, che naturalmente sfidano il mondo con la loro forza, quindi proprio una battaglia persa, no? Certo, assolutamente sì. Del patriarcato. Certo. Lei poi è un attivista stupenda, una donna stupenda, è ancora in Italia fra l'altro, ah. La vedremo in questi giorni perché fra 2 giorni riparte per il Sudafrica, quindi la vediamo adesso a Bologna, faremo un po' di di altre chiacchiere con lei. Ok, allora salutala da parte nostra. Assolutamente. Okay. Senti Luchi, io siamo fuori con le accuse. Siamo proprio fuori, cioè, le donne che vengono dopo di noi ci stanno guardando con intensità dall'altra parte del vetro, mandando dei messaggi indiretti e quindi della serie chiudete che state esatto, sì, sai quando uno stringe la mano e dice chiudi. Noi ci vediamo costrette quindi ad interrompere questa comunicazione con te, ringraziandoti per quello che sei riuscita a fare, per il tuo intervento qui oggi, e speriamo che l'anno prossimo noi possiamo magari ripetere questa esperienza di canale telefonico. Anzi, guardi, vi do l'anteprima, se volete l'anno prossimo il festival è del 18 al 22. Vai, grande. Non prendete impegni come si dice. Così, lo sapete solo noi, in anteprima la nostra trasmissione dall'anteprima di San Prefercake versione esatto, 2013. Grande. Va bene, senti, io l'unica cosa che posso fare stando qui al mixer, quindi avere il comando in mano della situazione, ti dedico una canzone che si intitola Thank You di Daido, va bene? Ti saluto e ci diamo allora appuntamento all'anno prossimo, un abbraccio. Grazie. Ciao. Grazie, salutatemi tutte quante. Senz'altro, sarà certo. Fatto, ciao. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Allora, solitamente non è nostra abitudine sfumare le canzoni, anche perché questa era una dedica a Luchi, quindi ci dispiace tantissimo, oltre ad essere una bella canzone. Ma ripeto, siamo fuori con l'accuso, quindi io e Manuela prima che ci esatto. Sparano a pallettoni. Ci spingono i microfoni da sotto. Allora, vi salutiamo. E ciao, ciao. E ci sentiamo alla prossima trasmissione. Un abbraccio. Beh, io a tutti. Speriamo in me riposo la prossima. No, ma non fare così, dai. No, no, vengo, mi mancate. Okay. Ciao. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. soledad. Si el error fue amarte, en mi corazón vuelvo a estar mal, porque estoy en ti y no sé vivir si a mi lado no estás. Me todo yo te doy por una noche. Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti nello spazio autogestito del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa. Siamo dagli 87.9 e siamo Samantha e Federica. E questa è la trasmissione che anche questa volta riesce ad accompagnarvi dalle 22.15 alle 23. Ed è Quando eravamo pelose, ovvero storie di donne senza peli sulla lingua. Lo volevamo dire tutte e due. Eh sì, per una volta ricordiamolo, dai. Ma cosa? Che cos'è Quando eravamo sì, pelose? Che cos'è? Beh, sicuramente è un incontro di idee diverse, di sentimenti comuni, di immagini, di colori, di suoni e di parole. Più semplicemente... un insieme di storie raccontate da donne su altre donne, senza peli sulla lingua. Le loro esperienze, la loro visione della vita, i desideri, i grandi successi e le ripide cadute. Storie di donne che hanno saputo lasciare un segno indelebile nell'immaginario collettivo e che hanno influenzato e tuttora continuano ad influenzare intere generazioni di altre donne. Wow! Was a new girl in town. Oh, rieccoci qua. Allora, stasera mi è piaciuto il tappeto musicale. Sì, eh? Beh, sei sempre più brava, guarda. Come gioco col mixer. Eh? Dunque, stasera vi raccontiamo qualcosa di una certa skin. Così la conosci, Sama? Sì, diciamo che ho avuto il piacere di vederla sia dal vivo sia nei video. E lei è la front woman degli Scancanensi, no? Mi sembra che sia lei. Scommetto che dal vivo ti piace di più che dal video, comunque. Sì, diciamo che è quello che si suol dire un animale da palcoscenico, lei. Sì. Veramente, dà veramente tanto durante i concerti. Sì, chi è lo sappiamo un po' tutti, quello che ha fatto credo anche. E quindi noi stasera abbiamo pensato di raccontarvi la vita professionale, musicale di questa cantante in un modo un po' diverso dal solito, cioè non la solita biografia, quando è nata, i vari album eccetera eccetera, ma raccontarvi lei attraverso le sue parole in qualche modo. Eh sì, ora ti faccio anche partire la canzone. ce la farò. Pronti? Don't try to fall, 'cause I'll crawl E quindi... Hai preso un nuovo sospiro. Sì, ho fatto un sospiro, la canzone lo merita, dai. Allora, raccontandovi Skin intervista per intervista, partiamo dall'inizio. In una delle sue prime interviste, infatti, la pantera del rock, così chiamata un po' nel mondo della musica, svela chi il so perché. Babbo. Svela il suo solo legame. Loro, capito. Tu no, vero? Ci stai riflettendo su. Per la fine della puntata forse qualcosa la tiriamo fuori. Comunque svela il suo rapporto con la musica. Come è nato il suo amore, diciamo, per la musica? Il primo disco l'ho comprato per questioni amorose. Era il singolo My Baby Just Care For Me di Nina Simone. Lo vendeva un ragazzo che mi piaceva molto e lo comprai per attaccare il bottone con lui. Poi andai a casa e lo ascoltai di nascosto, perché i miei fratelli avevano accesso al giradischi, ma io no. Mi sembrava molto bello sentire della musica che avevo comprato io. E adesso ce la sentiamo anche noi. In una delle ultime interviste, invece, del 2012, rilasciata intorno alla metà di quest'anno, ormai artista, donna matura, dopo tanti anni di carriera alle spalle, rivela... La bambina che ascoltava Nina Simone cresciuta. Esatto, e rivela invece che oggi il suo sogno è la stabilità. Una casa col giardino, un nido tranquillo, la persona che amo al mio fianco. Negli ultimi 10 anni la mia vita è cambiata, e è cambiata in meglio. Ho imparato molte lezioni sulla mia pelle e ho capito ciò che conta davvero. Quando sei giovane, povera e ti manca tutto, cerchi il successo ad ogni costo. Anzi, ne vuoi sempre di più, finché ti guardi dentro e senti che non sei felice. Allora ti rimetti in gioco e scopri che le cose più importanti sono avere qualcuno con te e trovare il tempo per fare le cose che ami, per gli amici, per la famiglia e per la band, ovviamente. Eh beh, e naturalmente tu lo sai, no? Proprio su queste dolci parole. Sì, lei quest'anno si è sposata per il dolore profondo di Samantha. Skin si è sposata, tra l'altro scegliendo l'Italia, si è sposata in Italia come tanti VIPs. Sì, diciamo che... E intorno al 10 agosto siamo riusciti a... Sì, più o meno, perché c'è un grande mistero. Giustamente ha tenuto segreto il suo matrimonio e pare che intorno al 10 agosto si sia sposata con la sua compagna Cristiana. Sì, non sono uscite in tante Italia. Notizie né tante foto, però pensa, si sa che c'erano la Scamaccio e la Golino. Scamaccio niente, e la Golino. Però gli invitati sì, classico. Quindi, sempre. E proprio per quanto riguarda le unioni gay e lesbiche, lei infatti dichiarava già precedentemente. Ma che cos'è poi un matrimonio gay? Definizione ridicola. Due persone si trovano, si innamorano e stanno bene insieme. Perché deve essere un problema il fatto che siano dello stesso sesso? Io sostengo la marriage equality. So che certi retaggi religiosi sono difficili da superare, ma è ora di cambiare. Credo fermamente che Stato e Chiesa dovrebbero essere separati. Tanti problemi di oggi sono dovuti al fatto che sono ancora troppo legati. Good. State ascoltando Radio Onda Rossa, siamo sempre Samantha e Federica. Bravissima te! Nel martedì autogestito da femministe e lesbiche, e questa è quando eravamo pelose. Ovvero storie di donne senza peli sulla lingua. E oggi parlavamo di skin. Sì, uno dei momenti cruciali è stato senz'altro nella sua vita di cantante, è stato senz'altro il passaggio dall'esperienza da solista, dopo tanti anni. Beh, è stata coraggiosa, dopo tanti anni ha lasciato un gruppo che comunque andava bene, sì, produceva sì, buona sì. musica. Soprattutto, insomma, no, la sua immagine era estremamente legata al gruppo degli Skank. Nonostante questo, sì, lei ha deciso di provare ad affrontare da sola il palcoscenico e naturalmente tante domande nelle tantissime interviste che ha sostenuto nel periodo in cui ha lavorato da sola. Sì, diciamo che gli abbiano fatto tante domande su questa scelta così difficile, esatto, e importante. Esatto. Parliamo della tua carriera musicale. Puoi dirci che cosa hai guadagnato ed invece cosa hai perso dalla tua esperienza da solista? Penso di aver imparato tantissimo. La vita è molto più difficile come artista solista, perché quando sei in una band hai il tuo suono, perciò tutto si ferma lì, devi solo suonare la tua canzone. Invece come solista ci sono un sacco di tempo per crearne uno proprio. Ultimamente ho sentito tanta merda dalla mia cassa di registrazione, cosa che non succedeva prima. Hanno molto da ridire, non in Italia, qui è tutto fantastico, ma in Inghilterra la mia casa di registrazione ha sempre qualcosa da ridire riguardo le mie idee. E quindi ciò che vorrei fare, cioè quello che è stato molto importante è stato il fatto che in una carriera da solista naturalmente le situazioni piacevoli sono a carico tuo completamente. Come quelle spiacevoli, naturalmente. Certo che in Italia sia meglio dell'Inghilterra. Ma perché lei è innamorata dell'Italia. Sì. È questa la verità. E ancora giustamente gli domandano qual è il reale motivo per cui ha scelto di fare un cambio così radicale, no? Dal gruppo a... E lei risponde: ero stanca, anzi esausta della vita che facevo. Essere negli Skank & Nancy è stata un'esperienza fantastica, ma non avevamo un minuto di tempo per noi. Il gruppo ti assorbe, non ti fa pensare ad altro. Io ad un certo punto ho capito che volevo migliorare la mia scrittura, diventare più articolata nel linguaggio musicale, condurre un'esistenza meno convulsa, meno folle. E ancora sugli Skank dirà che erano un ottimo gruppo, una bella crew. Avevano un suono più rock, più pesante, ma la rottura è stata necessaria. Diventare solista è stato uno sviluppo naturale. Il primo album è stato un po' un momento di transizione nella mia carriera. È stato realizzato in un periodo particolare della mia vita. Le canzoni, infatti, hanno preso un po' forma in una maniera quasi spettrale, un po' cattiva. Dovevo ancora scoprire una serie di elementi che avrebbero poi caratterizzato la mia musica. È stato anche un percorso introspettivo, man mano che il lavoro procedeva mi sentivo molto a mio agio. Il primo album da solista ancora non racchiudeva l'anima che mostro in questo disco nuovo, che è il mio suono, il sound di Skin. I'm a blessed. Noi naturalmente non abbiamo fatto sentire una canzone di lei da solista, ce ne siamo fregati altamente di quello che l'ha rilasciato nel corso dell'intervista, e abbiamo fatto sentire invece una canzone che Scusate, le canzoni le abbiamo scelte col cuore, non con la testa, assolutamente. Comunque, nel 2006, in occasione dell'uscita del suo secondo album da solista, si confessa alla Fighette Radio, in un'intervista in studio proprio. Canta quattro pezzi carichi di fascino, emozione, energia, ed è molto sincera. Esatto, è molto, molto, molto... Un momento, sì, però, sì, è aperta al mondo. Nonostante definisse il suo CD in tutt'altro modo. Sì, sì, lo definiva come qualcosa in un perenne stato di finta alterazione chimica, che poi è un po' il titolo, no? È un po' la traduzione anche del titolo. Sì. E al giornalista che le chiede, ritornando invece alla musica, gli Skank e Nancy hanno composto pezzi rock e punk, mentre il Britpop era al suo massimo. È stato un successo incredibile. Con il tuo nuovo album da solista hai riscoperto questo lato duro o è riemerso mentre facevi i tuoi nuovi DJ set? Flesh Wounds era un disco molto cupo, perché quello era l'umore del momento, dovuto soprattutto alla rottura degli Skank e Nancy e alla fine di un legame per me molto importante. Mi sentivo negativa, chiusa, amareggiata, e questo stato d'animo ha influenzato l'album, come se avesse avuto un colore. Sarebbe stato il blu. Sicuramente c'era anche una ricerca di me stessa e dei miei suoni, e mi sono concentrata unicamente sui testi delle mie canzoni, perché era tutto quello in cui volevo essere migliore, e poi infatti ci fu un risultato. Questo disco è molto più comunicativo, più vivace, contiene altri spunti che hanno preso vita anche suonando in DJ set oppure sentiti in discoteca. Le canzoni trasudano energia, sono brillanti, coinvolgono. Ho subito l'influenza di nuovi suoni. E poi continua ancora dicendo... Parlando delle relazioni amorose presenti. Esatto, sì. Poi di cui parla nell'album. Sì, dicendo anche che in qualche modo per comporre Flesh Wounds si è sentita a un certo punto prosciugata. Sì, dice che ha veramente faticato molto per fare questo album, perché ha veramente dato tanto, e poi fra l'altro parla di cose importanti come le relazioni. Sì, dice infatti parole testuali: ho riempito di canzoni 5 CD, poi li ho dati ai miei produttori, ho detto aiutatemi a scegliere. Alla fine le migliori erano le prime che avevo scritto, avevano più energia, più forza al loro interno ed erano anche le più complesse. Se c'è una cosa che non mi piace è l'eccessiva semplificazione dei testi, dei concetti, che contraddistingue in genere i brani musicali. Non credo che tu sia autorizzato a scrivere cazzate cagate. O cagate per il solo fatto di essere una rockstar. I believe to shine your light and save my soul like Superman. sempre a LifeGate rilascia altre dichiarazioni su questo suo secondo album da solista, e soprattutto riguardo, no, al concetto, cioè che fondamentalmente esprime il fatto che la società è dipendente da stati di alterazione della coscienza raggiunti in diversi modi, ognuno a modo suo. E il giornalista infatti le chiede come le sia venuta questa idea. Ero a Ibiza e stavo pensando come potrei chiamare il mio album. All'inizio avevo pensato a 37 giorni, perché abbiamo impiegato 37 giorni per registrarlo. Poi, mentre stavo suonando ad un DJ set, un ragazzo si è diretto verso la console urtando i miei dischi e io ho urlato: «Ehi uomo, stai attento, sei in uno stato chimico!» E avevo messo un pezzo dei Chemical Brothers. Tutto tornava. Poi, ripensandoci, mi sono detta che non era niente male davvero. L'idea del titolo è nata da lì. Da quella scena in poi è nata una serie di dibattiti su cosa sia un ipotetico fake chemical state. La differenza di effetti e comportamenti sulle persone che hanno fatto uso di erba, Prozac o cocaina. Parlando di queste cose, sono venuta a conoscenza di una serie di documentari andati in onda negli Stati Uniti che hanno fatto un po' di luce sui misteri della creazione di malattie ad hoc, realizzate per poi far nascere dei farmaci in grado di curarle. Questa è una delle tante sfumature che hanno preso forma da quello stupido episodio. Ed è successo così. L'ho scritta sulla copertina degli appunti del disco ed è rimasta lì. In effetti, esistono diversi modi in cui le persone possono leggere questa cosa, come ci sono posizioni politiche differenti che riguardano il vero significato di stato di alterazione chimica. Giustamente. Naturalmente, nel suo periodo da solista, la domanda anche frequente era se poi si era... come era accettata dal pubblico in questa nuova versione, no? Lei che era stata, comunque si era presentata con gli Scancanensi, adesso quali difficoltà trovava nell'affrontare il pubblico da sola? Sì, lei dice che è molto facile oggi suonare le canzoni degli Scancanensi, perché in tanti le conoscono bene, e invece, e dice ancora, il tour del mio album è sicuramente molto difficile, in quanto proponendo i miei nuovi pezzi potrei magari risultare noiosa. D'altronde, continua, possiamo dire che l'album risulta più impegnativo rispetto al passato, comprende molte parti elettroniche, perciò alteriamo il tutto con qualche vecchio pezzo degli Skank, sempre però riarrangiando il tutto secondo una nuova veste, la mia. Giustamente, è lei che decide di cantare come vuole. E questa è una bella domanda, perché è vero che lei live ha veramente una grinta forte. Sì, uno stato di alterazione chimica anche il suo. Non so se è chimico o se è soltanto adrenalitico, che poi sarebbe chimica anche quella, quindi va bene anche quello. Però sì, ha uno stato di alterazione chimica fantastico. Naturale. Naturale. Sì, e lei dice che penso che tutto esca dalla mia musica e dal pubblico. Io ci metto la mia chimica e la mia energia, cerco di non darla a tutti, e come un boomerang farla ritornare a me come una cosa reciproca. Perciò, godetevela. Cultural stare, suffocating, stiff and straight like we care. They say heart, just beating up some of what dreams are calling it. You have the vision, but you keep it all to yourself. Your rust is decomposing us. Money taken. We don't have a choice, but we still have a voice. Smoking. So now you're telling me it's so damn easy. Try to see yourself as coming crazy. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. I don't wanna be a marketing baby. Try to see yourself as coming crazy. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Sì, anche noi siamo rammaricati della qualità della canzone, infatti ve l'abbiamo sfumata, sì. Scusate. Si sentiva capita. Veramente male, scusate tanto. E comunque, per chi non lo sapesse, ma penso che lo sappiano un po' tutti... Siamo le veloci! Siamo sempre noi! No, Skin ha cantato anche con una band italiana, i Marlene Kunz, anche se o Kunz, che dir si voglia, anche se a me si può dire che la canzone non è che mi sia piaciuta tanto. Non è vero, è bellissima. A me non è che mi sia piaciuta tanto. Comunque la canzone che scrivo per forse te. Forse è l'unica canzone di Marlene Kunz che conosco. Non lo dovresti dire, lo sai. Comunque. Scusate. Sì, comunque. Hanno avuto un incredibile successo, sì, con quella canzone. È vero, in Italia, è vero. Anche, e canzone. Anche fuori dall'Italia, sicuramente. Un effetto traino di Skin, sicuramente. Anche fuori dall'Italia. E pare che si siano anche trovati molto bene a collaborare. Sì, perché hanno collaborato nuovamente insieme per Take Me On, un lavoro, diciamo, abbastanza recente. Cosa dice Skin su questa loro collaborazione? Sì, loro hanno avuto un incredibile successo in Italia con quella canzone e per moltissime settimane sono stati tra i primi in classifica. La canzone è splendida e ciò che significa che ora sono pronti a godersi il successo a un livello così alto. Ho pensato che i Marlene Kunz sarebbero stati fantastici. Li ho chiamati e ho detto: potete venire qui domani? Abbiamo provato il pezzo il giorno prima e il giorno dopo abbiamo registrato e la sera ci siamo ubriacati. Siamo andati a cena fuori e poi in un locale che è a Hoxton, quartiere a est del centro di Londra, dove ci sono molti posti carini. Tutti i miei amici gay mi chiedevano: chi sono i tuoi amici? Chi sono i tuoi amici? 3 ore e mezza dopo erano in mezzo alla pista a saltare per tutta la discoteca. Skin dice che per lei è stato molto divertente, ma poi li ha lasciati lì praticamente. Nella serie ci rivediamo, ci ribecchiamo. Tanto vi state divertendo, quindi sì, va bene infatti. Così, la serata è andata. Sì, e dice ancora che comunque Marlene non sono l'unico gruppo italiano che conosce, perché recentemente, dice, ha guardato MTV Italia e ha visto dei gruppi italiani molto interessanti. Ci guarda e ci ascolta e dice che conosce abbastanza bene e le piace anche abbastanza Elisa. It is just raining. It tornando ai nostri giorni, eccoci qui con Samantha che oggi la sta facendo più difficile del solito perché si allontana dal mixer a 30 secondi, 20 secondi dalla fine della canzone e poi parte da lontano, capito? Per vedere, cioè, ci sta veramente mettendo alla prova stasera. Brava Samantha, brava. Gioco un po', vado a spasso. Sì, vai a spasso. E comunque dicevamo. Sì, tornando ai nostri giorni, in un'intervista abbastanza recente, che tra l'altro ha rilasciato proprio in un'occasione dell'uscita dell'ultimo album, quello che stanno portando in tour, parla di aspetti un po' personali della sua vita, no? Ci racconta un po' più di lei. Sì, aspetti diciamo meno noti. Eh sì, pare che abbia studiato all'università, ha studiato design. Sì. Sì, dice che le piace molto e che perché è molto legato alla moda, che è un'altra sua addiction, dice. Ho fatto anche la modella, sa? E poi amo lo sport. Faccio jogging regolarmente. Fa bene avere degli hobby, essere eclettici, mantenere la voglia di imparare dagli altri. L'ho capito a mie spese.